vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ce vado io, bacio la tua. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voce sensuale che ha Cruciani, è veramente una bellissima voce, per cui complimentoni per questo suo programma che ho ascoltato così recentemente. Siete proprio bravi, si è inventata un'idea geniale. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te. Ormai è tutto degradato. Marisoni è il conduttore della trasmissione di prima, nonché vice direttore della radio. Ti sei dimenticato di nuovo il portafogli qui dentro. Allora, subito ispezione. 500 euro in contanti, questi l'avevo contati prima. 500, perché ha tutto questo contante? Dovrebbe essere favorevole alle carte di credito, alle transazioni online. 500 euro in contanti, una cosa incredibile. Tessere varie per carte di credito, già abbiamo detto, niente di nuovo. Scontrini, S lunga, supermercati, la radio, taxi, scontrini del taxi. Poi c'è una tessera di un locale, tessera da giornalista, tessera di un locale che si chiama Oceano. Locale Oceano in Svizzera, beh, lo conosco bene, Oceano. Andiamo all'oceano! Merita una riflessione. No, non merita una riflessione, è molto chiaro perché uno va all'oceano. Poi c'è. Tizio, impianti di sicurezza. Che si è fatto mettere dentro casa? Vabbè, vieni a riprendere il portafogli, eh! Sono ben 6 carte di credito, una in più rispetto a qualche giorno fa. Siamo ad alti livelli qua, Sentite quest'uomo, è spettacolare, si chiama Sergio Berlato. Sergio Berlato è un cacciatore ed è anche un consigliere regionale in Veneto, di Fratelli d'Italia, è stato parlamentare europeo per Forza Italia, eccetera, eccetera. E si immagina una situazione in cui ci sono dei ladri che entrano armati, pericolosi, dentro casa sua. Lui farebbe così. A mali estremi, estremi rimedi. Lo Stato non riesce a garantire l'incolumità dei miei familiari in casa mia? Ve lo dico tra il serio e il faceto. Io detengo legalmente una beretta 9x21, 15 colpi. Se in casa mia entra, lo dico tra il serio e il faceto, entro dei delinquenti in casa mia, io spero solo che non siano più di 13, perché avendo la mia beretta 9x21, 15 colpi, vorrei tenere 2 colpi per i feriti, ammesso che ce ne siano. Devo dire che molti lo dicono apertamente, io sparerei se entrasse un ladro dentro casa mia, ma qualcuno che dice... Se rimangono feriti, i 2 colpi che rimangono mi servono per finirli. Ma intanto mi prendo 10 euro da qua, dal portafoglio di Barisoli. Intanto mi servono stasera subito 10 euro in tasca, eccoli qui, 10 euro. Sentite la carta di 10 euro di Barisoli, su 500 si può, Every peace. Chionne contento per lo scandalo Volkswagen. Comunque per noi is a good moment, un bel momento. È un bel momento, un buon momento. Ora ci manca solo uno scandalo Toyota, uno Audi, uno Ford, uno Hyundai, uno Honda e diventiamo leader mondiali. È un piano a lungo termine. Naturalmente, però bisogna dire una cosa semiseria su questa vicenda della Volkswagen, che uno scandalo italiano di questo tipo, beh, secondo voi l'amministratore delegato di un'azienda quanto ci avrebbe messo a dimettersi? Forse un anno, due anni, tre anni, mai? Beh, oggi diciamo l'uomo irresponsabile della Volkswagen, che è da otto anni lì, si è dimesso, come sapete se avete seguito Radio 24 durante tutto il giorno. Crozza giudica così la minoranza del Partito Democratico e mi scuso ancora con tutti quelli che ci stanno ascoltando per aver usato la parola minoranza del Partito Democratico, che non vorrei pronunciare mai. Povera minoranza del PD, sembrano, sai cosa mi sembrano, Gio? Chihuahua doppiati da orsi, cioè tu li senti ringhiare nel bosco, no? Dici, oddio, cos'è questa roba? Poi li vedi spuntare e dici, ma vaffanculo. A proposito della vicenda dei talk show e di Renzi, sempre Crozza. Crozza è un vero editorialista, cioè è molto meglio di giornalisti, opinionisti vari, gente che scrive editoriali sui giornali, perché ti sintetizza, ovviamente sempre secondo la sua sensibilità, che è un po' di sinistra, diciamo, è un po' di sinistra, però avete sentito, cioè picchia forte pure su quelli che sono a sinistra del Partito Democratico. Comunque, Renzi e talk show. Giova ha detto che non si devono temere i talk show del martedì perché fanno meno ascolti di una replica di Rambo. Renzi che si preoccupa degli ascolti del martedì, ma che cazzo fa Renzi? Deve guidare il paese, non diventare una guida TV. Per la cronaca, anche ieri Rambo ha superato entrambi i talk show, sia Crozza che Giannini, che ha detto Rambo ce l'andiamo a vedere al cinema, eccetera, eccetera. Dobbiamo sentire pure Giannini, vabbè, sentiamo pure Giannini, dai, conduttore di Ballarò. Matteo Renzi ha criticato i talk show dicendo che sostanzialmente un film americano come Rambo fa più ascolti. Pensare che sia solo un problema di talk show è come l'affermazione di un malato che ha la febbre e invece di curare la malattia spezza il termometro. Allora, io rinnovo l'invito. Aridaglia con questo invito a Re, rinnovo l'invito a Renzi a venirsi a confrontare nella mia trasmissione. Allora, Miss Italia, no? Che fa gaff su gaff, eccetera, eccetera. Io la trovo invece geniale, la signora, com'è che si chiama? Giulia Sabatini, sì. La trovo geniale perché sta facendo un'operazione di marketing formidabile. Non so se volontariamente, cioè consapevolmente o inconsapevolmente. Secondo me anche sta studiando ogni gaff, perché mai si è parlato di una Miss Italia come si parla oggi. Di questa Miss Italia, peraltro un programma che non ha nemmeno fatto tutti questi ascolti, ma è un genio. Dopo la vicenda della Seconda Guerra Mondiale, sentiamo Striscia la Notizia. Tra i tanti personaggi della storia italiana, lei avrà qualcuno che ammira particolarmente, no? Di personaggi importanti, per esempio. Sì. E dica per esempio un personaggio importante. Michael Jordan. Era difficile. No, non era. E allora, vedi, Michael Jordan, grande cestista. Allora, si chiama Alice Sabatini, non Giulia, ma in ogni caso Staffelli le aveva chiesto personaggio storico italiano importante, Michael Jordan. Credo che lei abbia un tatuaggio, peraltro. Stupendo, meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro, a Mediaset questa mattina ha detto che la domanda sul 42, sul 1942, era inaspettatissima. Bah. Alice, ma come ti è venuta di dire che avresti voluto vivere in quell'epoca? In quel momento, tra agitazione, comunque era una domanda inaspettatissima, quindi volevo fare un omaggio alla mia bisnonna che era presente in studio. E invece è uscita male la frase e sono diventata una ragazza più parlata del web. un genio assoluto. Adesso pizzico Parenzo, che mi ha rotto i coglioni. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Digiuno ebraico, lo Yom Kippur, lo Yom Kippur. Adesso provo a chiamarlo perché ho il telefono di Patrizia Ravasi. Voi non sapete chi è Patrizia Ravasi, non è un nome che vi dice qualcosa. È la madre di uno dei due ragazzi, la madre di lui, diciamo, di quello che è considerato il regista, di uno dei due dell'acido, quelli che hanno sfigurato due ragazzi, tentato di evitare l'altro, Martina Levato, che ha avuto poi un bambino, tutta quella storia drammatica. Ho il numero, la voglio chiamare per capire perché sostiene che il figlio è innocente, un capro espiatorio. Richiamate, richiamate, dai, forza che risponde, su. Pronto? David, te l'avevo detto, ti romperò i coglioni per tutto il digiuno ebraico. Ma quanto dura? Oh mamma mia, t'ho detto dura 25 ore come tutti gli anni, non è che cambia. È una delle feste più importanti, che mi devi chiamare adesso? Io sto c'ho da fare adesso. No, ma rimani lì un attimo che dobbiamo fare una cosa importante, un'intervista fondamentale. Dai, una cosa seria per una volta. Allora, ci rivediamo giovedì. No, no, no, aspetta, rimani lì un attimo, è un'intervista seria. Signora Ravasi? Sì? Sì, buonasera, qui è Radio 24, la disturbo? Guardi, sono in farmacia al momento. No, le volevo, sì, chiedere, sì. Le volevo chiedere qualcosa su questa frase dei giorni scorsi in cui lei ha detto capro espiatorio, mio figlio utilizzato come capro espiatorio. Io sono stata ampiamente criticata. Beh, come non c'è dubbio. Come ha sentito, le mie dichiarazioni sono state definite da qualcuno demenziali, da qualcun altro vergognoso, dicendo che devo tenere un profilo molto più basso. Qua sono stati commessi talmente tanti errori che qualcuno deve avere il coraggio di mettersi la faccia e di dirlo. Certo, no, ma io volevo quindi capire una cosa, al di là del merito di questa cosa qua, nei confronti di quei ragazzi che stanno sfilando adesso, anzi uno che è sfilato con il volto sfigurato, che cosa prova lei? Ma è quello che proverebbe qualsiasi persona in un frangente del genere. Io sono estremamente dispiaciuta per questo ragazzo. Ma suo figlio non c'entra? Assolutamente no. Beh, scusi, però le prove sono... Sono prove, questo è il punto, non sono prove, non c'è una prova. Ma lei seguirà il processo, certo. Non c'è una prova. Hanno trovato, trovato bottiglie di acido a casa sua? Muriatico, non industriale. Sì, d'accordo. Ce l'ho anch'io, tre bottiglie di acido. In qualsiasi cantiere nautico si usa l'acido muriatico per pulire le carene. E chi gliel'ha buttato l'acido? Chi gliel'ha buttato l'acido in faccia a questi ragazzi? Quelli che hanno ammesso di averglielo buttato, sicuramente non mio figlio, non c'è una prova che neanche possa complice dimostrare. Neppure complice. Guardi, mi sembra che la complicità si estenda a tali come posso dire, ampiezze, sì. Che sicuramente la complicità può essere: se io accompagno lei e lei fa un gesto, io non ne so niente. Mi hanno spiegato che lei, io posso essere comunque suo compagno. Cioè, suo figlio non sapeva nemmeno, non sapeva nulla di queste vicende. Beh, io le rispondo se vuole in un altro modo. Mio figlio è arrivato con la sua macchina, le sue targhe, la sua faccia, il suo telefonino in tasca. Sì. Altre persone sono arrivate camuffate con una macchina con le targhe false e senza telefonini. Suo figlio è stato accusato nei giorni scorsi di essere rimasto impassibile di fronte a quel ragazzo lì. È stato accusato anche di questo. Ma guardi, ne scrivono tante, lei non può capire il dolore. Ma perché non ha mai chiesto scusa, per esempio, suo figlio? Ma scusa di che cosa? Lui non deve scusarsi, lui non ha tirato l'acido a nessuno. Lui può dire: mi dispiace profondamente per ciò che è accaduto a questo ragazzo. Qualcuno ha detto l'altro giorno in televisione: questi due scellerati che hanno sfigurato. Beh, ma sembra... mio figlio non ha sfigurato nessuno. Beh, mio figlio non ha tirato l'acido a nessuno. Ma scusi, nessuno. Ma lei ha letto le carte o no? Ci sono prove inattaccabili, io ho letto... signora? No, mi dispiace, ci sono indizi, non c'è nessuna prova. Mio figlio è arrivato dopo l'atto, dopo che si è consumato l'atto, mio figlio è arrivato e mio figlio non ha tirato l'acido. Le due persone, si sa benissimo chi sono, una perché lo ha messo e l'altro perché si è visto nel filmato. Ma cominciamo a mettere. Beh, ho capito, ma ha organizzato delle chi cose suo figlio? Chi dice che ha organizzato le cose? C'è una sentenza di condanna già di primo grado? No, si fermi, basata su una testimonianza di Andrea Magnani, che comunque è il vero complice. Cioè suo figlio allora, comunque è innocente, lei dice è innocente. Io dico che è innocente. Può fare il padre secondo lei? Beh, insomma, perché non dovrebbe poter fare il padre? Mio figlio non ha fatto mai del male a nessuno. Con queste accuse e con una condanna di primo grado. Ma un'accusa, se domani mattina accusano lei di aver sfregiato qualcuno per e lei carità. Non l'ha fatto, mi perdoni. Se dovesse, ma non sarebbe la prima volta che una persona si fa 10 anni di carcere, poi quando vengono fuori gli dicono: ah, scusa, mi sono sbagliato. Gli investigatori e i giudici sono impazziti. No, fermi, quali investigatori? Quelli della procura o quelli nostri? Perché cominciamo a seguire i processi. Beh, quelli della procura, diciamo, innanzitutto. Quelli della procura, ma nessuno è impazzito, semplicemente hanno creato un castello accusatorio basato su una serie di inesattezze, se non di negligenze. Ma che c'entrano i tatuaggi poi? Lei ha detto i tatuaggi, lo accusano per i tatuaggi. No, io non ho detto questo, io ho detto che l'impianto accusatorio è stato basato su una serie di negligenze investigative. Perché Martina Levato ha detto il giorno che è stato fermato: io ero con Alexander, non sapeva niente, ero accompagnata da un'altra persona, di cui in questo momento non voglio fare il nome. Si sono permessi il lusso, e ricordo che sono pagati dai contribuenti, di non credere a questa ragazza, perché tanto avevano fermato uno e avevano già la loro ipotesi. Io sono una persona per bene e voglio giustizia e verità. Suo figlio sta soffrendo? No, ma non dico solo per quello. No, ma suo figlio sta soffrendo? Beh, io direi proprio di sì, lei cosa pensa? Ma tutti in questa faccenda stiamo soffrendo. Pare che la signora Levato abbia cambiato strategia difensiva. Si vedrà, quando si presenterà verificheremo se ha cambiato strategia difensiva o no. Se l'ha levato, cioè, ma è in grado di fare la mamma secondo lei? Credo che una persona comunque una volta che ha pagato il suo debito nei confronti della giustizia, l'unica cosa che posso dire è che se l'ha levato non ha ucciso nessuno, fino a prova contraria. Come non ha ucciso avrà nessuno? Ha fatto un atto grave, ma io non sono in grado di dirle se può fare la mamma. Ma io come non ha ucciso nessuno? Mettiamo che fosse stata lei l'unica responsabile, ha comunque sfigurato due persone. Cosa vuole? Che io mi arrogo il diritto di esporre, di giudicare una persona che non conosco neppure, ma che con che presunzione dovrei farlo? Ma quel ragazzo, Savi, si sente di dire qualcosa a quel ragazzo che si è presentato in aula e ha detto: non sono io a dovermi vergognare? Sicuramente neanche mio figlio si deve vergognare. Io, se potessi veramente aiutarlo in qualsiasi modo, gli darei anche veramente pezzi dei brandelli della mia pelle, perché ciò che gli è accaduto è ingiusto. Io sono profondamente amareggiata per ciò che gli è accaduto. Un ragazzo giovane, però suo figlio bello, non c'entra. Con la vita davanti. Mio figlio non c'entra. Grazie, buona serata. A lei, arrivederci. Allora, ovviamente aspetto i vostri commenti, 800 24 00 24, alle parole della madre di quel signore che ha contribuito, secondo la sentenza di primo grado e secondo tutti gli indizi possibili, a sfigurare due persone. Però ho sentito ieri sera porta a porta delle cose incredibili da parte naturalmente di vegani, i signori vegani. Solo un piccolo assaggio. Paola Maugeri, che è una conduttrice, showgirl, così si può dire, no, forse non showgirl, non è esatto, comunque Paola Maugeri, vegana convinta, conduttrice radiofonica, eccetera eccetera, dice che suo figlio, che è vegano di 8 anni, cresce più degli altri. Io ho un figlio che è cresciuto assolutamente vegano, ha 8 anni, è il più alto della sua classe, è un bambino perfettamente in salute che fa le classiche malattie dell'infanzia, soprattutto quelle esantematiche, ma ha una ripresa meravigliosa. Dipende, uno, che tipo di genitori vegani sono, se consapevoli, competenti o meno, e due, i bambini vegani crescono invece 4 cm in più rispetto ai bambini non vegani, proprio perché non sono torturati, non le assicuro che è così, assolutamente da non tutti è così. Gli estrogeni e gli ormoni che invece le ci sono sulla carne. Le dico che non è così, lei sta dando dei numeri che sono... Allora, Prodomo sua. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi. Follie vegane animaliste sentite ieri sera a Porta a Porta. Mio figlio cresce 4 centimetri in più rispetto agli altri. Sì, ho un figlio che è cresciuto assolutamente vegano, ha 8 anni, è il più alto della sua classe, è un bambino perfettamente in salute che fa le classiche malattie dell'infanzia, soprattutto quelle esantematiche, ma ha una ripresa meravigliosa. Dipende, uno, che tipo di genitori vegani sono, se consapevoli, competenti o meno, e due, i bambini vegani crescono invece 4 centimetri in più rispetto ai bambini non vegani, proprio perché non sono torturati, non le assicuro che così. Assolutamente non è così. Poi c'era un tale, un professor Pinelli, che dice chi mangia carne. Sentite. Lei sta dicendo sostanzialmente, certo, che uno che fa una dieta onnivora e quindi mangia anche carne è un condannato a morte. Certo. Gli italiani vivono più a lungo per caso. Come mai gli italiani vivono sempre più a lungo? Per caso, scusi, abbia pazienza. Ma se noi siamo la popolazione più longeva del mondo, farmaci, dopo i giapponesi, ma non c'entra nulla, mangiando queste schifezze, passano gli anni ultimi della loro vita vivendo fra ambulatori, ospedali e pieni di farmaci. Ma non è vero, ma non stai facendo terrorismo, Lorenzo. Tullio Solenghi, Einstein e Leonardo erano vegetariani. Tutti i vegetariani di cui parliamo, cioè come dire che Margherita Hack è cresciuta male perché da sempre ha fatto una scelta vegetariana. Einstein era vegetariano, quelli che sono qua sono Leonardo era vegetariano. Poi questo gruppo di estremisti si scontra con il professore nutrizionista calabrese sul latte. Ancora Maugeri, Paola Maugeri, i bambini si ammalano con il latte. Un bambino di 10 anni gli togli il latte solo perché c'è poi il latte di soia? No, perché no, si ammalano. Perché se tu gli togli il latte non avrà brucia. Si ammalano. Tutti i bambini sono malati in Italia, perché prendono il latte. Cioè, lei sta dicendo che se lei vede, ma che dici? Lei vede. Hai fatto il pediatra e dici che i bambini sono tutti malati in Italia perché prendono il latte. Ma non devi dirle questo è terrorismo. Domina, stravince, Montanini sempre, ragazzi, Giorgio Montanini sempre. Ce la legge, non te lo permetto. Quanti punterebbero una pistola alla tempia a un vegano e costringerlo a mangiare un agnello scottadito? Alzate la mano. Quando mi stanno sul cazzo i vegani, oh, con sta carne. I vegani possono pure aver ragione, come i testimoni di Geova, può essere c'è ragione, ma la boria, la carne mangi, assassino, vivo della pezzo di merda, boom, schiaffo su, però c'è la legge, non lo puoi fare. Ha proprio ragione Giorgio quando dice possono pure avere ragione, non lo escludo, ma quando ti guardano, ti fissano, sei un poveraccio, un assassino, uno che mangia le carcasse dei poveri animali, è questo che ti sta sulle palle. Gianluca, provincia di Lucca, vai. Sì. Vai. Pronto? Dimmi. Buonasera. Ho sentito prima che hai raccontato la storia dell'onorevole consigliere regionale del Veneto, dei delinquenti che entrano a casa sua. Sì. Ecco, no, volevo dire che sono anch'io in parte d'accordo. Perché vuoi sparare pure tu? Che vuoi fare? No. Cioè io mi devo difendere la mia proprietà, se mi entra a casa un delinquente io mi devo difendere. E vabbè, ora, questo non è proibito. No, lo so, però con il rischio che vieni accusato te per eccesso di legittima difesa, cioè ci vuole in questo paese una riforma sostanziale della giustizia. Vabbè, d'accordo, in questo, poi in questo... No, e poi dico che sparare su feriti non va bene, però allo Stato sono queste le riforme che vuole la gente, le pene certe, va bene, leggi che non possono essere interpretative. Se te entri in casa mia a delinquere, io mi devo difendere, e poi sono cavoli tuoi. Grazie, capito? Graziano Macerata, vai Graziano. Senti, io volevo dire, se mi fa un favore, a dire agli animisti che i cinghiali gli farebbero i passaggi pedonali, perché a me mi ha sfasciato la macchina. Cioè, non ho capito, spiegami un po', che è successo, un cinghiale che ha fatto? Mi ha sfasciato la macchina, è da dire agli animalisti che facessero i passaggi pedonali, almeno i cinghiali passano lì e io non li prendo. Mi è venuto addosso, mi ha sfasciato la macchina, 2.300 euro, sì. È un anno e mezzo che ancora non si vede niente, ho messo l'avvocato. Ma scusa, ma chi te li deve dare questi soldi, il proprietario del cinghiale, chi te li deve dare? Non lo so, ho fatto una cena. L'avvocato per chi, per cosa, il cinghiale, cioè tu dici chi te li dovrebbe dare questi soldi, grazie. Allora, cioè, animalisti, perché è loro che... Ma gli animalisti chi? Ma non è che gli animalisti rimborsano, no, perché un cinghiale ti ha sfasciato la macchina? È un consorzio che alimentano questi cinghiali, la zona di Macerata, che due anni fa ne erano c'erano. Ma tu sei fuori di testa, cioè tu hai i soldi, ma non è che i cinghiali, sì, se qualcuno è proprietario del cinghiale l'ha fatto scappare, ma non credo che sia così. No, siccome è un ambiente che sono pieni di cinghiali, vanno in giro, sfasciano di qua, sfasciano di là. E io ho fatto questo avvocato, mi ha detto che si può riprendere i soldi, però non si vede niente. Poi dice che in Italia sono intasati i tribunali, cioè a te, per carità, un cinghiale ti ha sfasciato la macchina, ti ha fatto un danno di 2.300 euro e hai fatto causa. Sì, ma sì. Ha detto che mi dava questi soldi. Ma chi te li dà questi soldi? Chi? La provincia. Sì, la provincia, cioè noi praticamente. No, io adesso sai che faccio? Aspetto un mese, siccome ho la licenza del cacciatore, io vado su, ne ho ammasso 4-5, sì, me li vendo e recupero i soldi, perché solo questo si da fare. Dopo, se si avvicina qualcuno, ci penso io. Ma mi dicono che alla Regione Marche c'è un fondo. Luca, dove sei? Sono qui in camerino che mi preparo per Tetris. Tetris un cazzo, Matrix, Tetris. Matrix. Ma no, come diceva quello, volevo dire la cosa quella meravigliosa del nostro ascoltatore che ha detto... come l'ha chiamato? Chi? Matrix, lo chiamava? Chi? Ah, Matrix, e che ne so io? No, ha detto, ti ricordi il giorno che non avevi neanche capito che parlava di Matrix. Senti, ma non è meraviglioso il fatto che comunque questo qua, tu sei contro la Volkswagen? Maastricht. Ormai parliamo solo di frontiere Maastricht. No, però questo della Volkswagen si è dimesso alla fine, eh? Beh, era un morto che camminava, ma in Italia che la partita è più grande. Sì, ma in Italia non si dimette nessuno, almeno questo qua si è dimesso. Ma va, era morto da due giorni, adesso si scopre. Sì, ma in Italia fuori non si dimetterebbe mai i nessuno. I test erano stati fatti a luglio. Se erano furbi, se non pensavano di salvarsi, dovevano muoversi prima. Comunque attenzione al tuo maggiolino, perché in Italia pare che ci sia 1,5 milioni di clienti a rischio. Maggiolino è fantastico, va a benzina, siamo non c'entra niente, sul fossile, dici. Arcaico siamo sicuri, non è quello nuovo, è quello vecchio, è quello di Wolfsburg. Andrea Padova, vai Andrea. Volevo parlare per quanto riguardava i cacciatori che sparano agli animali in giro per la foresta. Se fosse un discorso ad armi pari, io darei ragionissima a loro. Ad armi pari, che non può essere ad armi pari. Gli animali non possono avere un fucile in mano, una pistola in mano. Gli animali hanno le zanne e hanno gli artigli, quindi... Sì, vabbè, ho capito, ma insomma è diverso, no? Uno quando l'orso mangia il cacciatore, dopo tutti ad incolpare l'orso invece. Vabbè, allora? Il cacciatore gira armato per la foresta ed è disponibile anche a ricevere dei colpi oltre che darli. Dunque? Sì. Dunque io do ragionissima al signore di prima che diceva che quando il cacciatore ha sparato il fratello o era lui un cacciatore di merda che non sapeva dove mirare. Vabbè, ma quello capitano, ci sono anche gli errori, ma quello godeva, certo, però gli errori bisogna accettarli, non bisogna adesso piangersi addosso perché è morto il fratello del cacciatore. Lui andava in giro armato per essere disposto a prenderle anche qualche colpo. Ma come? Non è che quelli si sparano tra di loro, quelli teoricamente sparano agli uccelli, agli animali, no? Sì, ma sparano anche agli orsi e ai cinghiali, quando l'orso mangia il cacciatore deve essere messo in preventivo di essere ucciso. Sì. È come quando il militare va a fare la guerra, deve mettere in preventivo di essere ucciso. Comunque mi dicono che i cinghiali in realtà appartengono al demanio, quindi i danni che commettono in teoria possono essere risarciti dalla pubblica amministrazione. Cioè il cinghiale fa casino, sfascia le macchine e paghiamo noi. Fermi! Sì, ma dai, fatti bravi. La Zanzara. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Luca non c'eri, ma secondo me la dichiarazione del giorno è stupenda. Al Consiglio regionale del Veneto, un signore che si chiama Sergio Berlato se n'è uscito con questa frase che faccio sentire. Ti prego, dopo proviamo a chiamarlo. Senti, chiamiamolo, senti. Perché quello è ubriaco. Senti, no, ubriaco, esageri, dai. Ma l'hai già letta. Adesso te la faccio sentire live. Amali estremi e rimedi. Lo Stato non riesce a garantire l'incolumità dei miei familiari in casa mia? Ve lo dico tra il serio e il faceto. Io detengo legalmente una beretta 9x21, 15 colpi. Se in casa mia entra, lo dico tra il serio e il faceto, entrano dei delinquenti in casa mia, io spero solo che non siano più di 13. Perché avendo la mia beretta 9x21, 15 colpi, vorrei tenere 2 colpi per i feriti, ammesso che ce ne siano. La conclusione è spettacolare. Ammesso che ce ne siano di feriti, ammesso che ce ne siano, vanno in qualche modo finiti. Gabriele, provincia di Macerata, vai. Buonasera. Sì, dimmi. Signor Cruciani, la sentivo prima parlare con quel signore pure di Macerata, non so di dove, e sì, quell'altro che non so, lei ha dato del pazzo, non so se quello di Macerata o quello prima che sparava se qualcuno entrava a casa sua. Allora, lei difende certe cose, considero che il pazzo sia lei. Ma che cosa è che difendo? Non ho capito. La legittima difesa? Scusate il gioco di parole. Certo che la difendo, no, la legittima difesa, assolutamente. Io sono dalla parte di Berlato. Delinquenza? Ma che delinquenza? Cioè, quale delinquenza? Allora, adesso, allora, Telesia, non mi rompere i coglioni su questa cosa qui della difesa personale, Giustamente dice, a me mi è stato fatto un danno. Chi paga? Paga chi protegge e chi fa i danni. Ma sì, vabbè, dai ragazzi, la causa per il cinghiale che ti rompe la macchina, attimo, dai, su. Io spiego un attimo io, Civitanova, giunta di sinistra, il sindaco ha ospitato a casa sua due famiglie di rom, perché lui piace questo. A me mi è stato rubato da un bambino rom, due braccialetti e una catenina. E allora? Chi dovrebbe pagare, secondo lei? Ma nessuno, quei rom, mica la provincia. Ma come nessuno? Se lui si permette di mettere in giro per il paese, deve potenziare l'ARI. Scusimi tanto. Vabbè, rispondi tu, Teresa. Deve pagare lui. Perché questa gente non deve vivere con gente civile. Queste sono gente incivile. Ma chi? Ma chi? I rom. I rom. Ma le potenziali ladri. Ma te spariamoli. Ma ragazzi, ma qua. Ma tu che pensi dei rom? Corro un po' troppo leggero. Gabriele, che pensi dei rom? Non ho capito. Se loro hanno scelto una vita loro, devono stare per conto loro. Punto. Non possono stare nella società civile. E dunque che facciamo? Quindi spariamo e quindi arriva Rambo e spara. Io non ho detto di sparare. Non ho detto di sparare perché è entrato un bimbo a casa mia, non me ne sono accorto, ma se me ne accorgevo sicuramente non sparavo, ma un calcio in culo glielo davo. Vabbè, i calci in culo, per carità, nessuno va in galera per i calci in culo. Ma se noi lasciamo passare sempre queste cose, alla fine diverrà un bordello le strade di tutti i paesi in Italia. Vabbè, se Gabriele, permettiamo certe cose. Sì, ho capito. Ma hai capito che cosa? Che cosa ho capito? Nulla, perché non hai detto nulla. Hai detto è giusto fare causa a chi ospita i rom se i rom rubano a casa mia. Insomma, la responsabilità è personale, come sai, Lei non so se lo ricorda che a Civitanova quattro anni fa si sono suicidate 3 persone. Ma no, non mi ricordo che a Civitanova si sono suicidate 3 persone. Abbi pazienza, allora, come faccio a ricordarmi? Ascolti, il sindaco ha permesso di suicidare 3 persone. Ma che senso? Erano economicamente proprio sul lastrico. Vabbè, allora nessuno l'ha aiutato, però lui si è permesso di mettere una famiglia rom, due a casa sua. E vabbè, cazzi. Ma dove siamo? In quale mondo siamo? In che mondo siamo? E la prossima volta non lo voterai, che ti devo dire? Vabbè, Lores, Vicenza, vai, Lores. Buonasera. Dimmi cara, dimmi. Ah, la famosa Lores da Vicenza. Tu non la conosci, Telese? Lores da Vicenza. Beh, spettacolare. Già mi fa simpatia. No, non so se ti farà simpatia. Non so se ti farà simpatia. No, a me Telese proprio no. No, cioè ti sta sul cazzo Telese, Lores? Ah, così? Ma Ma i sinistri tutti. Nome del cavolo. Com'è? Chi è che ti sta antipatici? Ti stanno antipatici? I sinistri sono bacati. I sinistri sono bacati, stupendo. Sì, nascono così. Cioè nascono come, Lores? Nascono con la sindrome comunista. Sì. Che intende un insieme di patologie tipo falsità. Poi? Certo. Poi? Latrocinio, certo. Poi? Falsità? Sì, telese, sì, sì. Sì, ma io ho molto latrocinio, sì. brava. Ecco, brava. Falsità, latrocinio, poi? E poi? Ma tutte le delinquenze del mondo nascono così. Cioè, tutti i sinistri, quelli che tu chiami... Chi sono i sinistri oggi in Italia, secondo te, Lores? Tutti i deficienti che votano a sinistra. Vabbè, ho capito. A sinistra che significa? Il PD è di sinistra? Credo ben. Con la sboldrona. Come sboldrona? La sboldrona, dai, Lores. È la boldrinina. Sì, ho capito, mamma, ma che vuol dire sboldrona, scusa? Beh, nella mia lingua veneta sì. Significa. No, ma perché ma ridi? Non ci dimmi. Credi neanche tu. Dai, dimmi, perché è sboldrona? Che vuol dire? Se io, guarda, sono l'unica, ma quello che dico lo penso e ci credo. Ma questo non lo metto in dubbio. Ecco. Devi sapere, Parenzo, che Lores da Vicenza è stata, anche se non ricordo male, candidata per un partito indipendentista veneto. Però Lores, dimmi il motivo per cui hai chiamato. Credo che sia la questione, se non leggo male, delle aggressioni in casa, no? Sì. Perché? Che è successo? Perché se vengono dentro a casa... Sono venuti. Dentro casa tua, sì, mi ricordo. In abbondanza. Sì, però... Ma tu sei armata? Probabilmente mi hanno addormentato. Ma tu hai la pistola, no? Ero già addormentata, hanno fatto qualcosa in modo che non mi svegliassi e hanno rubato. E sono stati fortunati. Perché? Perché io li ammazzavo e dopo li buttavo giù da poggiolo. Ma scusa, li ammazzavi come? Ma in qualsiasi modo, guarda. Ho una forza tremenda. Hai una forza? Ma qua sì, siamo alla mitomania, sì. È bello che... intanto lei non rappresenta la destra, che è piena di persone per bene, ma solo casomai un'ala di nosocomio, 118, gente. Ma che... dai, Tenese, io non rappresento aiutata. Nessuno. Poi, io non rappresento solo me stessa. Lei è un e po' quella mitomane, la quindi non è di rappresentare destra. Cosa? Lei non è di cosa destra, è mitomane, è un po'. La distruzione di un popolo, la e fame di un popolo, i suicidi e di un popolo. Panzane e come tutti questi pistoleri da salotto. Questi frustrati, questi poveretti hanno dei grandi problemi. No, guarda, io non sono immaginare frustrata. Se stesso come i bambini che fanno i sogni che risolvono. E balla da salotto sei proprio tu. Sai, io non sono tu. Pistolero, è lei che dice che vuole fare. Vabbè, Lores, poi i ladri sono, vabbè, entrano dentro casa tua, tu li ammazzi. Ma come? Con le mani? Come li ammazzi? Col coltello, con un bastone. Tengo sempre qualcosa per difendermi. Sempre. Ma perché non hai fiducia nella giustizia? Quale? Italiana. Quella comunista? No, ma quella comunista. Italiana? Quella italiana, perché tu dove vivi? Non vivi in Italia, scusami, Lores. No, vivo in Veneto. Vabbè, dai, su, basta con sta storia. A me dell'Italia non me ne frega proprio niente. Non sono italiana, per cortesia, sono veneta. Dai, e su. Sono fiera di essere veneta. Vabbè, dai, Luca, rispondi tu, dai, ti prego. Ma io ho già risposto, cioè questa ma non sì, ho fa un ma servizio. Sì. Non no, ci crede. Poi lo fate non so voi neanche... i servizi. Non so neanche se sei completamente sobria, forse hai bisogno d'aiuto. Poi eccolo il comunista, il telefono, come un altro coglione, Parenzo. Quando uno dice quello che pensa e che non è no, nei ma nostri ma si canali, può dire quello che sono si vuole. Ubriachi. Non si può dare sfogo a tutti i pensieri neri che si hanno nella testa, questo è il principio. No, della no, non sono pensieri neri. E comunque lei ha bisogno anche di aiuto. 800 eccolo, 024, eccolo il comunista. Mandano chi non anche... la pensa come voi è malato, va curato. Scusa, però, Lores, sto guardando, se non ricordo male, la tua bacheca Facebook. Tu dici delle cose tremende, per esempio, anche su Coso, anche su oltre che sulla Boldrini. Ma come la consideri la Boldrini? Proprio il peggio del peggio? Non c'è peggio, veramente. È il male assoluto. Quella donna lì è pazza, furiosa, veramente. Ma dai, è il male. Il male. Quella donna lì è il male. Il male assoluto. Ma non esagerare, sì, dai. Sì. Ma perché vuoi? No, senza esagerare. Ma poi dici bisogna eliminare tutti. Che vuol dire eliminare tutti? Sì, io eliminerei Renzi, eliminerei. Prima di tutti eliminerei Napolitano. Ma come li elimineresti? Ma fisicamente li faresti fuori? Beh, prima ci proverei in un altro modo. Eliminare, tu dici, eliminare tutti. Eliminare. Sì, ma non devi mica ammazzarle le persone per eliminarle. Si possono eliminare. Quando ci lasceranno andare a votare questo paese di dittatura comunista mafiosa? Ma scusa, ma sono non tutti era, mafiosi, ma no? Non è di Veneto, il paese è il Veneto, allora non è più adesso è l'Italia il paese. Vabbè, ferma lì, ciao Lores, ciao. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. La Zanzara. Chiamiamo Berlato, dai. Chiamiamo vai. Mitico Berlato, vai. Però se è come questa, secondo te è così grave? Poi tu devi intervenire, Giuseppe. Ma che devo intervenire? Non ma mi io rompere non faccio il pupazzino di sponda. Cioè, c'hai una tua responsabilità. Se gli dai troppo spago a questi, a euro. È pericoloso, è diseducativo. È diseducativo. Chiamiamo Berlato, dai. Pronto? Berlato? Sì? Eccoci qui, sono Cruciani, buonasera. Salve, come va, signor Cruciani? Come stai? Bene. Senti una cosa, mi spieghi un attimo che è successo? Sei pronto a uccidere i ladri in casa tua? Beh, spettacolare. Finalmente uno che ha il coraggio di dire quello che pensa. Beh, ieri abbiamo approvato in consiglio regionale una mozione che io ho presentato. Sì. Una persona che detiene legalmente un'arma in casa, regolarmente denunciata, se viene aggredito in casa propria da dei criminali armati che possono non solo attentare al proprio patrimonio. Come fa a sapere che sono armati? È semplice vedere se una persona è armata, per dire, no? Nel caso in cui ci sia questa minaccia nei confronti non solo della propria persona ma anche dei propri cari, vabbè, uno è legittimato. Uno è, succede però che una interpretazione che viene data di questo articolo da parte di alcuni giudici eccessivamente garantisti faccia sì che la persona aggredita in casa propria da criminali armati, se si difende, viene spesso incriminato per o eccesso di legittima difesa o per omicidio volontario. Il cittadino onesto corre il rischio di essere vittima due volte, la prima volta dei criminali, la seconda volta delle istituzioni, che sembrano schierarsi più a fianco dei delinquenti che non a tutela delle persone. Però scusami Berlato, quello che ha fatto discutere in realtà non è questa mozione che hai presentato, eccetera, eccetera. Ma sono le frasi che hai detto su quello che faresti tu. Allora, ricapitoliamo un attimo. Tu che pistola hai? Io ho una pistola, una Beretta 9x21. Ma solo quella hai? Caricatore bifiliare, 15 colpi. Sì, ho quella pistola. E che ovviamente tengo per difesa personale. Sono munito di un regolare porto d'arma per difesa personale. Ma la porti in giro ogni tanto? Regolarmente denunciata. Sono portatore d'arma, quindi posso... ho questa possibilità di portare l'arma anche con me. Cioè quando esci la sera a cena ogni tanto te la porti? Sicuramente sì, perché cioè adesso ce l'hai, adesso che sei in macchina ce l'hai dietro, per esempio? Sicuramente sì. Cosa succede se entrano dentro casa tua? L'ho detto tra il serio e il faceto, vedete. Vabbè, la mia affermazione c'è anche. Ma in consiglio regionale non si dice niente tra il serio e il faceto. Quando uno fa delle dice non è il bar. Io so perfettamente che non è il bar, perché un senso delle istituzioni fosse più elevato di qualcuno che parla in sottofondo che telese. Non sa neppure cos'è il consiglio regionale. È telese. Non so chi sia, non mi interessa. Beh, non ti interessa, te lo dico, è telese. Ah, perfetto, bene. Telese, come dice questa cosa? Che dici? No, ma io sono rimasto stupito a Berlato, che forse sa che io ho rispetto per la sua storia, non ho rispetto per il modo in cui lui si è espresso, perché ha usato questo trucco, questa cosa un po' tarocca dell'ordine del giorno in consiglio regionale per fare un piccolo show allusivo dicendo 15 colpi, spero che non vengano in 13, alludendo al colpo di grazia. E questo non è più un ordine del giorno, è una specie di istigazione a delinquere, anche compiaciuta. Guardi, io stupisce. Ho detto che, ed è registrato, nel caso in cui io fossi aggredito in casa mia da criminali armati che mettono a repentaglio l'incolumità mia o dei miei familiari, io ho detto che spero che non vengano più di 13 alla volta, perché siccome la mia beretta 9x21 ha 15 colpi, vorrei tenermi due colpi per finire i feriti nel caso in cui ce ne siano. Non credo ce ne siano, perché è una buona mira. Dico, nella cultura rurale si dice che è sempre meglio avere un brutto processo piuttosto che un bel funerale, e piuttosto che io sia costretto ad andare al funerale dei miei cari, dei miei figli, preferisco fare un brutto processo dove andarmi a difendere, perché ho semplicemente, mi sono limitato nel rispetto della legge, con un'arma legalmente detenuta, difendere la vita dei miei familiari. Però Berlato, facciamo l'esempio, poi adesso sentiamo la critica di Telese. L'esempio è questo: io ho il diritto anche di finire un ferito con un colpo che mi è rimasto, perché non so se questo ferito magari può avere anche lui una pistola e se può ancora farmi del male. Cioè, lei lo finirebbe o no? Allora, se la persona che viene ad aggredirmi in casa e quindi mi mette nelle condizioni di dover difendere me, la mia famiglia, e quindi se gli sparo un colpo, per dire, no? Per dire, non riesco ad ammazzarlo al primo colpo, per dire, no? Se lui insiste nel voler portare avanti il suo intento criminale, io gli sparo di nuovo fino a che l'ho messo nelle condizioni di non nuocere a me e alla mia famiglia. Però hai una buona mira. Ho una mira molto buona, ed è per quello che ho detto che mi... Ma dove miri? Dove si mira? Per uccidere qualcuno, per essere sicuri, dove si spara? Per essere sicuri, per uccidere qualcuno, bisogna sparare a un bersaglio che sia vulnerabile, e quindi si sa che si spara a bersaglio grosso. Cioè dove? O in fronte o in mezzo al torace, e lì è molto probabile che il colpo possa fermare l'aggressore. Capito, Telese? Questa istigazione all'omicidio a me dispiace, perché sembri anche serio. Io mi auguro che questo signor Telese, che non ho il piacere di conoscere, uno che dice di sparare in fronte, stai dicendo di sparare in fronte. Ma che c'entra uno che ti aggredisce, Telese? Dai, su. Allora, io non so se il signor Telese faccia il magistrato oppure il procuratore della Repubblica. Probabilmente farà il... non lo conosco. No, fa il conduttore televisivo, Hai un conduttore televisivo, ecco, non conosco il suo nome, quindi Matrix, conduce Matrix. Beh, che mi inviti nella sua trasmissione, dove avrò modo di chiarire ancora meglio. Ma io non riesco a capire l'elogio del colpo di grazia. Ma lei si rende conto di aver fatto fuori dal bar attraverso il microfono, perché non mi invita nella sua trasmissione? Ma siamo qui, ho capito che lei per un minuto di televisione sparerebbe a sua madre. Ma però pensi, mi lei per... dei figli, io guardi, che io ci sentono dei minori, sarei, e che lei io sarei attratto, signor Telese, sarei attratto da venire in una trasmissione che magari mi dia un po' anche di visibilità, ma nella sua trasmissione, guardi, sono io a fare un piacere a lei se vengo alla sua trasmissione, capisce? Di me possono avere paura solo i delinquenti, le persone per bene non hanno paura. Sergio, Sergio, l'hai usata la pistola qualche volta? Solo al tiro a segno. Solo al tiro a segno, ma quante volte ci vai? Ci vado per tenermi allenato, perché bisogna capire che bisogna essere in grado di poter usare un'arma. Devo dire la verità, Berlato, Telese si è fatto ritrarre recentemente, perché non se ne vergogna, nella sua veste di cacciatore. E ci sono anche polemiche su una foto che ha messo su Facebook, credo, dove c'è scritto a tortore con gli amici. Tortore, sei con gli amici. In completo mimetico. Ma tu che cosa cacci di solito? Non c'è nulla di male. Che cosa cacci di solito, Sergio? Aspetta un attimo. Migratoria, anatre normalmente, o tortore e quant'altro. Io sono orgogliosamente un cacciatore. Sì, lo so. Sono un cittadino di serie A, perché ho la fedina penale perfettamente pulita, altrimenti non mi rilascerebbero il posto d'armi le autorità competenti. E gli animalisti che ti dicono? Ti minacciano? Non mi vergogno, ma io ho avuto tante minacce agli animalisti. Io non ho mai minacciato un animalista, ma ognuno mostra quello che ha. Ma dove la tieni sta pistola quando giri? Dove la tieni? Ovviamente è attaccato alla cintura, così come c'è una... E a letto, quando vai a letto? Quando vai a letto te la metti vicino al letto ogni tanto o no? La metto sul comodino. Ma solo quella pistola? Hai solo quella pistola? Ho dei fucili da caccia che uso per andare a caccia. Cioè, per difesa personale hai solo quella pistola lì? Beh, non avete a che fare con Rambo. Grazie Sergio, grazie, ciao. Bene, saluto. cos'era poi la pistola che era una Beretta, che c'ha una 9 la Beretta uno... calibro 9 con caricatore bifilare da 15 vedi colpi. Vedi che te lo ricordi però, caricatore bifilare da 15 colpi, ci vorrebbe, ci vorrebbe l'opinione di Enrico Telese, però lasciamo perdere questa no, lasciamo non cade... mi pare, non mi pare il caso, non mi pare il caso, fermi tutti. Torniamo tra un secondo, restate lì, Poi Luca dimmi quando devi andare, Ciao. E togliete un po' di sta cazzo di pubblicità, date un affanculo. La Zanzara. Buonasera Cruciani. Allora, anch'io sono una congelatrice di gatti. Questo per non dimenticare mai da dove veniamo, da dove veniamo. A proposito della vicenda Volkswagen, in Italia ovviamente, diciamo la destra, così tanto per essere generici, maramaldeggia contro la Merkel, Gasparri, bisogna presentare il conto alla Germania. Dobbiamo presentare implacabili il conto alla Germania. L'arroganza della Germania nei secoli si riproduce. Si è riprodotta, guardi, le faccio un discorso che qualcuno si offenderà, dalle invasioni barbariche al nazismo. Bisogna presentare il conto, perché l'arroganza che vuol dire della Merkel. Bisogna presentare la Germania il conto? Non può più presentare il conto ai paesi, deficit, il bilancio, il 3%, a casa, imbroglioni. Beh, spettacolare però, Luca. Vabbè, ma stiamo, ora voglio dire, questa è una trasmissione tutta da antidoping, ma dalle invasioni barbariche, da Roma Augusto. Bisogna presentare. Ma no, dai. Bisogna presentare il conto ai tedeschi. Attila. Aspetta, aspetta, non è finita, senti ancora. Pagarete caro, Teodorico. Senti ancora Gasparri. Insomma, della Merkel, e io lo so che pensava a quelle sia le risatine della Merkel di Sarkozy, se ne deve andare la Merkel, se ne andava il ministro della Volkswagen, la prossima volta che un tedesco ci dice qualsiasi cosa zitto imbroglione, possiamo tranquillamente dire zitto imbroglione. In effetti, per chi ha il mito della Germania, adesso manca solo che si scopre qualche bunga bunga, qualcosa del genere, e poi è finita. Scusa, posso ricapitolare? Ci siamo dimenticati. Lufthansa, aereo caduto. È finito il mito della sicurezza tedesca. No, non era Lufthansa, no? Sì, della Lufthansa. No, Vueling, sì, dai, era Vueling è spagnola, come si chiamava? Mi ricordo, se Air Berlin, una cosa del genere. Comunque la compagnia economica tedesca aveva il pilota folle che chiudeva in cabina. Poi abbiamo il problema delle scorie industriali, lo smaltimento industriale della Siemens, poi esce fuori pure il pezzo di Paolo del Tiro su Corriere della Sera che la Wehrmacht hitleriana usava le anfetamine, cioè pure il mito del guerriero germanico è caduto, adesso è arrivato colpo di grazia che i test erano tutti taroccati con un software costruito. Ma tu perché godi? Non ho capito perché godi. Cioè, sei come Gasparri, alla fine sei come Gasparri. No, sì, sei come Gasparri, godi. Ma scusa, ma godo perché c'è un problema. Cioè, la guida alla Germania in questo momento è una guida sbagliata, perché non hanno portato Vabbè, ma non le loro virtù, ma le loro debolezze. Dicono che la Grecia truffava e truffano. Anche loro, e poi soprattutto, cioè, pensa, hanno fatto il super vertice dove risolvere il problema di cui per esempio parlo stasera, l'immigrazione epocale, e mentre abbiamo 2 milioni alle porte decidono come allocarne 140.000. Fa ridere. Roberto da Roma, qualcuno ci ha accusato, ma voi in questo modo potete essere, no, prendendo per il culo la Volkswagen, come abbiamo fatto ieri con gli spot, eccetera, mettete a repentaglio il mercato, siete passibili di querela, ma chi se ne frega, noi diciamo quello che pensiamo e ce ne sbattiamo delle conseguenze. Roberto da Roma, vai Roberto. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo solo condividere. Ma era Germanwings, mi suggeriscono da Vicenza che era Germanwings. Roberto, vai. Sì, no, volevo condividere parzialmente quello che sosteneva l'amico di prima per quanto concerne la difesa personale nella propria abitazione. Allora? Allora, se ti danno modo di reagire, se ti danno modo di difendere te, la propria famiglia o i tuoi cari, i tuoi beni, io sono pienamente d'accordo, senza andare alle cerchie. Ecco, tu sei armato? Tu sei armato? Sì, regolarmente armato. E che cosa hai come arma? Una Glock. Una Glock. Telese, conosci la Glock? Sentita. Mai, se come no? La Glock, dai, su. Io. Non lo so, è la Glock. Sempre una 21, sì. Sì, ma com'è? Che ci vuole per sparare? Un'arma automatica. Molto molto buona. Cioè, tu se vedi un ladro dentro casa tua, la prima cosa che fai spari. Beh, bisogna vedere, bisogna trovare, non è si può fare un film su una cosa. Sì, però genere. Anche lì vanno prese decisioni all'istante. Certo, cioè, non è che puoi dire scusi, lei è armato, scusi, lei è pericoloso, o spari o non spari, dai. Su. Armato o non armato, se io rientro dentro, vivo in un appartamento, sono in una casa in periferia dove c'è il recinto, il cancello, e se li vedo uscire è chiaro che se ci riesco a fermarli, o quantomeno, come succede spesso nelle periferie di Roma. Okay, ma se li vedi dentro casa, se vedi uno, se stai vedendo la televisione, se mi danno la possibilità, difendo me i miei cari. Sì, d'accordo. Allora, Roberto, mettiamo che tu sei a casa, no? Stai a casa e stai dormendo. Senti dei rumori strani, vai giù e vedi dei signori che armeggiano ed entrano dentro l'uscio di casa. Che succede? Che succede? Spari, non spari subito. Ho capito, ma... Che spari subito, se ti danno modo, che è facile, c'è qualcuno che sorveglia te, che ti muovi, magari non ti puoi muovere. Perché cioè, neanche prendere la pistola nel comodino, però se mentre escono, se riesco a dargli una botta, gliela do, è proprio sicuro. Va bene, Fabio Milano, vai. Buonasera Giuseppe. Sì, dimmi. Buonasera. Senta, volevo dirle, ha ragione la mamma del signor Alexander Becher. Il figlio non ha tirato l'acido, però stava col martello in mano a rincorrere quel povero disgraziato. Com'è sta storia? Sì, ma guarda, è chiaro che la madre pensa che il figlio sia innocente, certo. È normale. Che lui sia l'organizzatore di tutto mi sembra anche fuori discussione. Poi dopodiché, poi in un processo può succedere qualsiasi cosa, come Luca sa bene nel caso di Bossetti. Appunto, poi una cosa volevo chiedere al dottor Telese: ha fatto benissimo a scrivere quell'articolo sul Libero settimana scorsa, perché secondo me anche qualcosa... Sì, no, io ho letto quello di settimana scorsa. Vabbè, perché? Perché comunque non sono molto chiare le cose sul processo di Bossetti. Vabbè, vedremo, dai, non ne possiamo discutere qua. Lorenzo da Pavia, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo dire due parole sulla caccia. Insomma, io trovo molto più etico uccidere un animale che ha vissuto tutta la sua vita in libertà piuttosto che allevarne centinaia e stargli in una stalla e fargli vedere solo il mangime e dopodiché la tagliola. No, non ho capito. Che cos'è più etico? Uccidere un animale che ha vissuto in libertà per tutta la sua vita rispetto a allevarne a centinaia senza possibilità di muoversi al buio di una stalla per poi ucciderli. Ma che vuol dire al buio di una stalla? Ragazzi, gli allevamenti per gli animali, per macellarli, esistono da un sacco di tempo. Lei li vorrebbe eliminare? Ma non li voglio eliminare, sto dicendo dal punto di vista etico, mi sembra che allevare gli animali solo per lo scopo di ucciderli e quindi di farli avere una vita molto misera, molto più etico e più naturale. Naturale che cosa? Beh, il fatto che un predatore, come dire, li uccida e se ne cibi. Maurizio Milano, vai. Buonasera, sono Maurizio. Dimmi. Niente, io volevo parlare sul discorso della difesa in casa, che veramente è una follia pensare che uno non abbia la possibilità di poter fare una cosa del genere. Ti spiego chiaramente, noi siamo normalmente, viviamo in maniera civile, normale, ognuno di noi non pensa mai di fare una roba del genere. Poi una sera, e hai la fortuna, magari la fortuna, hai la possibilità di avere una pistola, perché hai magari la volontà di andare ogni tanto a sparare al poligono, e hai quindi un'arma in casa, tu hai a casa la tua famiglia, i tuoi figli, a un certo punto entrano della gente che ha intenzioni assolutamente non normali, non lecite all'interno di casa tua, che possono essere dal rubarti il suppellettile sul mobile o andarti a violentare la moglie o di ammazzare i tuoi figli, e tu che fai? Cioè, non hai una pistola, e se nel momento in cui hai la possibilità di usarla non gli scarichi addosso tutto il caricatore, ma tutta la vita, e ti dico anche che se per pura combinazione, dopo che gli ho sparato addosso, sei ancora vivo, lo finisco, poi finirò in galera, come diceva. No, ma attenzione Maurizio, no, questo è interessante, Telese, cioè Maurizio dice, io se ho la possibilità, tu hai il porto d'armi, Maurizio? No, io non ce l'ho. Però diciamo, se tu avessi la possibilità di usarla, tra parentesi, cioè tu avessi la possibilità di usare una pistola, scaricheresti tutto su un ladro che entra o su un potenziale stupratore o quello allora, che è, giusto? indubbiamente, come dicevano un paio di persone prima di me, devi avere la possibilità di farlo anche. Vabbè, ma quello è... non è il primo scemo che arriva e ti ferma. Vabbè, ti tu lo finisci e lo finisci pure. Ma anche perché nel momento in cui succede qualcosa, io finirò sicuramente in galera o comunque avrò dei grossi problemi. Quella persona che ha avuto la malvagia idea di entrare in casa mia e di addentrare la vita e la tranquillità della mia famiglia non ha motivo di esistere. Ma per cui io non vado a fare durante il giorno, vado a cercare di entrare in casa degli altri o a creare violenza agli altri. Se noi viviamo tutti in maniera serena e tranquilla, ma non è che ha torto questo guantelese, come fai a dar torto? Sono io. Come? Scusate se sono l'unico che non vuole sparare stasera, anche tu Giuseppe dici ma sì, io sono d'accordo, anch'io non sparerei perché mi non sento ho... un pochino in difficoltà, un po' in minoranza, non c'ho la fondina, non c'ho la pistola, non c'ho il sogno di accoppare uno, di sparargli in fronte, mamma mia, dai, qua è diseducazione di massa. Ma non è diseducazione di massa, questo qua sta dicendo che se potesse finirebbe pure un ferito, un rapinatore ferito, cioè gli scaricherebbe addosso. Come quelli che invece che scopare si leggono i giornaletti porno. Ma che c'è? Maurizio, rispondi a Telese per favore, dai Maurizio. Ma cosa c'entra questa storia? Telese, allora, se uno ha, nella vita normale di tutti noi, ripeto prima, non abbiamo la nostra intenzione di andare a cercare di sparare qualcuno, ma se lei a casa sua è tranquillo. Ma voi non avete avuto il ladro a casa, voi sognate il ladro per poter sparare. Ma io non sogno assolutamente il ladro, ma è quello che dice lei. Io nella mia vita tutto voglio, tranne tant'è vero che non ho il bene d'arte, e allora pensi a casa sua a stare felice di avere una situazione del genere. Io sarei enormemente. Ma lei non ce l'ha questa situazione, statisticamente non le capiterà. Se stia a casa tranquillo, ma me lo auguro, porti tuo figlio al parco e il sogno della pistola lo fine. Non guardare quello che per fortuna a me non è successo, ma guardi a tutti quelli che è successo e che non hanno avuto la possibilità di farlo e che sono finiti o hanno avuto dei problemi o hanno avuto la moglie uccisa, violentata o loro di per sé. Quanta ma non c'è questa fine? Carneficina, se ci fosse vivete la realtà, in un film normale. Maurizio, grazie. Senti Luca da Modena. Luca, senti. Ma non Luca. È un film di Tarantino. Senti, senti un altro Luca. Senti che ti deve dire. Che ho letto dallo schermo. Luca, Luca, che devi dire? Luca, Modena. Poi scappo qua. Buonasera. Sì. Volevo intervenire sulla discussione che c'è appena stata. Dà ragione al signor Berlato. Anche per un motivo molto semplice. Che se il ladro che va in casa è una persona che ha il porto d'armi non rimane secco sul posto, un domani quando si riprende le ferite, quando si sarà fatti 22 giorni di galera, lui può tornare a delinquere a casa di persone che non hanno la possibilità di difendersi. Quindi chi uccide un ladro fa anche un favore alla collettività per il futuro. Sì. Bene, vabbè, ecco un altro, vai. Allora, fermi, pubblicità, poi ce n'è anche per te, poi non perdetevi il peggio di Radio Padania. Resta lì Luca, ancora alcuni minuti. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. La Zanzara. E torna il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano un ascoltatore insieme a Sammy Varin. Senza dubbi né ripensamenti. Tra l'altro Fotos mi sembra anche taroccata perché il bambino era molto da parte, l'hanno anche messo in posizione perché facesse più effetto. Certo, sono cose tristissime da raccontare. Adesso poi salta fuori, ci sono illazioni bruttissime che dicono che addirittura il padre potrebbe essere uno degli scafisti, cioè robe pazzesche a cui non voglio credere, non ci voglio credere. Sali Padania, Bossi e la condanna. Bella la tua terra. Intanto la condanna di Bossi non è una pena ma è una medaglia, perché dire chi è quel camorrista, quel personaggio che ne ha fatti di tutti i colori è solamente dire la verità. Comunque per Bossi la condanna è un onore, perché essere condannati per dire chi è il napoletano è solamente un onore. Parte che è napoletano. E comunque questo gli ha dato del camorrista. Del camorrista. I migranti cialtroni collaborazionisti. Sentiamo. Servi di Roma fuori. Quei cialtroni di collaborazionisti rinnegati che chiamano poveri gente i migranti, che ti dicono se foste voi al loro posto, rispondergli che se noi andiamo al loro posto a casa come turisti dobbiamo filare sul filo del rasoio, se no ci prendono a pedate là dove non batte il sole, a casa loro. Poi invece possono venire a impestare casa nostra. Come una madre e un figlio. E quelli là vengono qua e hanno 37 euro al giorno, o parlo meno, non loro. Hanno da vitto, alloggio, in albergo e cose. Loro hanno l'opportunità, noi non ce l'abbiamo. Quello a Matrix devi dirglielo. Che loro scappano di qua, vivono, mangiano, visitano, fanno, forcano, se ne sbattono le balle. Libertà. Sammy Varin, i ciabattanti, la robaccia e i muscoloni. Ripensamenti. È robaccia per la Merkel, è robaccia per la Finlandia, per la Svezia, cioè questi non li vogliono, capisci? Loro vogliono i profughi, quelli veri, è chiaro? Per cui tutti questi ciabattanti, belli in forma con i muscoloni che li vediamo scendere dalle navi, cazzolino però per essere un aspirante profugo, figaccia, eh? Cioè, secondo voi che fine faranno? Ce li terremo qua in Italia a ciabattare avanti e indietro. Mia bella e libera, guardava. Un siriano sul mio divano non lo avrete mai. Un siriano nel tinello. Un siriano nel tinello. Un siriano sul divano. Sul mio divano. E se non lo metto, ci danno la multa. Ma vi rendete conto? No, il mio divano non lo avrete mai. A chi ti vuol fermare? Questo era il peggio di Radio Padania. Sali Padania. Filippo da Vercelli, vai. Pronto? Dimmi. Io volevo parlare di questi vegani che non sanno neanche dove hanno la coda le mucche. Sì. Perché quella signora che ha parlato porta a porta, prima di tutto, lo sa che in Italia e in Europa gli ormoni nella carne sono illegali? Cioè uno va in prigione e l'allevatore se le mette. Io vorrei sapere, i figli degli altri che mangiano la carne, dove li prendono questi ormoni? Secondo, l'altro signore che dice che è più etico sparare a un animale che gira in giro che non allevarlo. Ma guardi che se mi dà 2000 euro per un chilo di carne, io l'animale lo accarezzo e lo tengo in salotto. Solo che siccome quel signore se ne va a comprare le uova in gabbia al supermercato e poi viene qua a fare la paternale, che non è morale, non è etico, sono i consumatori che fanno il prezzo, eh. Sì, vabbè, questo è chiaro, ma tu che fai di mestiere, Filippo? Io faccio l'allevatore. Allevo tacchine e galline. Sì. E gli voglio bene ai miei animali. No, agli, ma certo, animali poi l'allevatore però gli vuole bene, però questi poi vegani non lo capiscono. Ma poi li fa fuori però. Ma per forza, perché il leone, mica se si mangia il vegano, cosa può dire? Magari gli ha anche voluto bene, magari il vegano l'ha cresciuto, gli ha dato tutte le cure, poi alla fine se lo mangia. E uno deve pur vivere. No, no, ma Filippo, se mangio la carne, ma con me sfondi una porta aperta, dai. Cioè, ma poi il problema è che questi vegani pongono come scienza, sì, delle notizie assolutamente false. Gli studi cinesi che i vegani vivono di più non sono fondati. Ma sono puttanate, dai. Sono tutte puttanate. Dai, e i vegani vivono di più. Ma di che stiamo parlando? Dai, su. No. Io volevo solo dire questo. Ciao. Alessandro Firenze, vai. Pronto? Sì, dimmi Alessandro. Sì, senti, allora premetto che io sento la tua trasmissione quando tragitto lavoro-casa e quindi sì, mi tiene sveglio. Sì. Ora volevo dire, quando torna Parenzo? Perché domani. Perché sentire sto telese veramente le palle. Beh, ragazzi, io ho capito. Fa addormentare in macchina, fa addormentare. Vabbè, ma che si fa delle flebo di cavolo? Ma non esagerare, dai, forza. Almeno dai. Parenzo è una delle più grosse teste di cavolo, ma almeno fa arrabbiare, fa incazzare, fa battere. Ma anche lui ha fatto incazzare oggi, ma dai. Ma che fa? Oggi, dopo che ho telefonato, sei un po' ripreso. Lo vedi? A te ti hanno minacciato per prendere la trasmissione, perché non è possibile. Se cosa? Hai subito una minaccia. Ma quando mai? Ma dai, su, ma no, che c'entra? No. Questo è simpatico come un calcio nelle palle. Vabbè, quello è un altro discorso. Cosa proprio, fa tutte le battutine, le risatine. Mamma mia, Gesù Maria. Ma vedi che Parenzo in trasmissione. Ma domani ce l'hai, ma lo vedi che t'ha fatto un po' incazzare però lui. Sì, ma sono già arrivato a casa però. Però t'ha fatto un po'. Rischiavo di addormentare. Ciao, Elvira, Roma. Allora? Dimmi, Elvira, dimmi, cara. Niente, volevo dire soltanto che io sono dell'idea di quel signore un po' esagerato, che può sparare pure se non muore subito, però io una difesa preferisco io offendere piuttosto che subire un'aggressione, semplicemente. Vabbè, d'accordo, ma tu quanti anni hai, Elvira? Vabbè, io ho subito un'aggressione che non mi ha fatto niente, insomma sono uscito, allora? Evidentemente erano venuti su preciso, come dire, decisi a prendere la pistola, il mio marito era morto da poco e insomma... E hanno tentato, io non ho avuto paura. Ma dove, in casa? Sì. Sono entrati dalla finestra, io vivo da sola, in mezzo a un bosco, si può dire. Sì. E insomma. Ma che hanno rubato alla fine? Niente, assolutamente niente, perché loro erano di loro, dicevano appunto voglio la pistola, insomma io non gli ho dato niente. Insomma, per farla breve, dopo un po' ho fatto il corso. Di saperla maneggiare, perché non avevo mai visto una pistola da un vicino. Corso di che? Per avere il porto d'armi? Certo. Ma a che età? A 80 anni. Cioè, tu a 80 anni hai chiesto poi il porto d'armi? Sì, ho il porto d'armi per averlo in casa la pistola. Cioè, e te l'hanno pure dato? Certo. Ma come certo? Ma non l'ho mai usata. Ma te la sei comprata? La pistola te la sei comprata? Era quella di mio marito. E ho capito, che pistola è? Ma non so nemmeno, io ho soltanto questo... Ma valla a prendere un attimo, fammi sentire un attimo il tocco della pistola. No, non devo andare a prendere niente, io non... Fammela sentire un attimo, voglio sentire il rumore di questa pistola, il rumore... Ma per l'amor di Dio, ma la tocco... Allora, io... Ma no, lo sparo, il rumore... Ascolta una cosa, non c'è bisogno di queste cose spettacolari. Ma no, ma per capire, se no mi sento moltissimo... Se no mi hai detto una cazzata... Che cosa? Magari mi hai detto una stupidaggine. Ecco, se ho detto una stupidaggine te la tieni, perché devi essere anche pronto a subire, ma in questo caso non è assolutamente... Non è una stupidaggine, bene, ma sto dicendo che c'ho la pistola, sì, e c'ho idea, sì, senza ecco che volevo far passare io, il fatto che uno non è un criminale. Ma chi ha detto? Infatti io non ho nessuna, ascoltami bene, dimmi. Io non ho nessuna volontà. Sì, ma chiudimi la radio, se no sento un ritorno, amica mia. Dico, io non ho nessuna idea, come dire, di vivere in eterno, altro, posso morire anche adesso e mi sta bene, ho fatto una bellissima vita, sto tutta tranquilla, però non voglio essere aggredita. Io, ma tu pensi di usarla a 80 anni, a 83 anni? Aspetta una cosa, io sto dentro la mia stanza, sì, se qualcuno entra, o dalla porta o dalla finestra, io prima sparo e poi domando chi è. Ecco, tu, amica mia, ma c'hai 83 anni. E beh, che vuol dire? Ma no, non vuol dire niente, ma 83 anni, una signora di 83 anni che spara quando entra un ladro è spettacolare, è inedito. Guarda, vuoi sapere una cosa? Dimmi. Mi stai facendo uno show che io ti ammiro moltissimo, perché riesco a tirare. Ma non è uno show, scusami un attimo. Il peggio del peggio da tutti. Però mi dispiace adesso aver telefonato, perché io non volevo fare nessun tipo di... Come dire, volevo soltanto... Io trovo una cosa normalissima. Ma anch'io lo trovo normale. Anch'io lo trovo normale. Io lo trovo normalissimo. No, ma anch'io, amica mia, io ti abbraccio fortissimo. Lo trovo anch'io normale. Se tu mi chiami e mi dici una cosa del genere, io questa cosa qui la ingigantisco e ti dico, a 83 anni... Quanti ne ha? 83, Elvira, scusami. Signore. A 83 anni sei una persona lucidissima. Il fatto è questo... Hai chiesto il porto d'armi e... Fammi capire una cosa, ma a te ti pare che sembrerebbe più giusto che io mi faccia ammazzare o magari soltanto umiliare dalle botte? No, ma dunque, spiegami una cosa. Ma io ammazzo prima, hai capito quello che voglio dire? Sì, ho capito, dunque entra uno dentro casa tua e tu che fai? Sparo, ma proprio se faccio un tempo, certo. Vabbè, ma lui chi se ne frega. Vabbè, tanto che ti ammazza, che te frega a te. Non te ne frega, bravo, hai detto molto bene. Che te frega meglio morire in un altro modo, però, cara. Ma per carità, io sarebbe meglio morire in un'altra maniera, Ma certo, ma io non vado mica cercando qualcuno che ho tentato di insinuare come tale, che magari se lo meritava pure, ma tu cerchi. Ma io, per carità, io cerco che sia tutto finire la mia vita. Esatto. Sarebbe meglio non morire per mano di un ladro. Però tu dici, se entro dentro casa mia, vabbè. Ma non voglio subire. Io no, voglio passare questa idea. Perché deve essere accettato che un ladro entri e sia difeso poi, perché dice la legge non l'ho fatta io, perciò non l'ho preso. Però perché deve essere più giusto che io subisca invece da una persona forte, che magari ha 30 anni, che solamente con una botta mi dà tutti i dolori del mondo, questo è giusto, e se io ammazzo prima no. Il tuo discorso. No, io voglio che passi soltanto questo. Ciao Elvira, ciao. Buonasera. Ciao. Guarda che c'è gente strana in giro, La Zanzara. I'm a real wild one. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrat. Well, I'm just out of school, I'm a real cool, gotta dance like a fool, got the message that I gotta be a wild one. Oh yeah, I'm a wild one. Allora, ci scrive David Parenzo: è un giorno utile quello del Kippur, perché non si mangia e non si beve, si stacca il cellulare e si riscopre la libertà di essere off per un giorno. Inutile ricordarvi i grandi del cinema e della televisione ebrei che proprio nel giorno di Kippur, grazie a questo stacco assoluto, hanno inventato grandi cose. Per colmare la vostra nota ignoranza, vi rammento in che cosa consiste il Kippur. Da oggi, cioè ieri, da oggi pomeriggio alle 16.15 sarò a casa di mia suocera a mangiare fino alle 17.30, quando inizia il digiuno. Non si beve e non si mangia fino a domani sera alle 20.15, cioè è già finita la cosa. A seguire cena in famiglia, dunque ha ricominciato a magnà, con i migliori manicaretti della tradizione ebraica. Allora, c'è anche la questione dell'espiazione, però, l'espiazione di Parenzo. Di cosa si potrebbe pentire? Forse di qualche duetto qui a Radio 24? Con chi? Vediamo, con buon anno, vai! E portandolo. E buon anno! No, cioè, adesso sono, scusami, sono le tigri ora, gli elefanti e i pagliacci dopo. Se e tu sei, usi il caso secca, Tortosa. Una merda secca. Piacere Parenzo. E tu usi solo il caso Tortosa per fare politica. 2015. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare perché usi politicamente il caso Tortosa. In un campo di sei semplicemente stronzo, detto con un'unica parola, un coglione. C'entra. Sei un coglione, ecco qua, te lo dico con amore, la checca coglione, lo spelling ti faccio, coglione. Ma perché? Io non ho capito perché adesso questi insulti a buon anno, spiegami. Ma perché usa, perché no, intanto mi ha insultato per prima lui, ma adesso ma non che è detto? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Ha detto il clown, l'onorevole, il clown. Vabbè, ma il è clown. Dall'inizio che dici clown, va bene, ci sta, ridiamo. Intanto è intervenuto quando c'era il numero delle scimmie, il clown arrivano dopo. Ho ricordato al clown che Tortosa che dice cazzate. Ma guarda, vergognati Parenzo, sei di quello talmente che dici. Vergognoso. Sei un comunista di merda. A differenza di Tortosa, sei fortunato perché io non ti querelo, sei fortunato e anche l'immunità. A differenza di Tortosa che ha la dignità e chiede scusa, che c'entra? Tu sei uno sciacallo perché fai politica sulle spalle di Tortosa. Forse l'espiazione serve anche con Taormina. Ma io non e tu dovresti lavorare figlia. Gratis no, per due mesi a un'associazione di omosessuali dato, no, vedrai che ti cambia la testa anziché ma dargli 10.000 euro e chi ti sta presto? Vedrai che ti cambia la testa anziché farti vedi che ti fa più male anziché pagare 10.000 euro ai servizi sociali per due mesi all'Arcigay a fare l'avvocato gratis per l'Arcigay. Questo è la legge del contrappasso, questa è, capito? A chi non voglio servire. Stai dicendo che No, io ti ho detto, io ti ho detto un'altra cosa, ti ho detto che la pena più corretta sarebbe, ma non hai capito, la pena, ho detto che la pena vera sarebbe stata quella, anziché farti pagare fai due mesi gratis all'arcigay, pena migliore non è la tua iracondia, ma non è gay, ma non mi interessa, ma è la tua iracondia, dimostra semplicemente che la pena migliore sarebbe stata due mesi gratis all'arcigay, due mesi gratis all'arcigay, due mesi gratis all'arcigay, due mesi. Vai a fare tu il giornalista. Io non sono stato condannato, io non sono stato condannato. Beh, come dimenticare Banna Marchi, forse di questo deve, deve chiedere scusa Parenzo, l'espiazione del chi pur serve anche a questo. Parenzo versus Banna Marchi. Carissimo, tutte le volte che tu eri in televisione che non avevi, avevi pochissimo ascolto, poi quando ne volevi un po' chiamavi Banna Marchi e figlia. Fanculo, guarda. No, ci vai tu. Detto con rispetto assoluto. No, però. Ci vai e tu che forse sei piatti. Abituato. E partiamo subito piatti, cara mia Anna. Che hai ultimamente sei Stefania abituato, nobile, mi sa. Stefania Nobile. Ma scusa, in che senso, in che senso abituato? No, scusa. Lei veniva dai. Ma mi dice a me va fanculo, ci va lui. Se io sapevo cioè, che c'era sto piccolo stronzo, ti giuro davanti ma no, a Cristo. Lei lo sapeva, lei lo allora, sapeva. No, ma questo no. È un essere che non deve neanche camminare per strada. Ma adesso non esageri, ha detto un suo parere, secondo ha fatto, me, ironie, secondo... ha fatto delle ironie su quello che è successo. No, no, lui non fa ironie, lui è proprio cattivo ma dentro. Che, ma, cattivo, ma lui è proprio Io non l'ho insultata. È proprio cattivo dentro. Calmatevi. E per chiudere sull'espiazione parenziana del Kippur... La scrittrice Santa Croce, animalista, vegana e tutto il cazzo che volete contro Parenzo. Io sono uno scrittore e lei è nulla. Cosa vogliamo fare? Una partita ping pong? Scrittore. Vabbè, scrittore. Vabbè, d'accordo, scrittore, scrive. Sono scrittore, lei è nulla. Ha capito? La scrittrice che usa il termine olocausto animale, la scrittrice, la scrittrice. Certo, perché ma di olocausto certo animale corno, si certo. Ok, ora, cioè lei che allora, è scrittrice, ora, scrittrice idiota, poi, in tutto da dimostrare. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio, cretino. Beh, in ginocchio, davanti a me in ginocchio. No, per questo non deve chiedere scusa, forse. Va bene, dove andiamo? Anna da Roma, 800240024, Anna vai. Anna dimmi. Buonasera, volevo dire che sono rimasta molto male della signora veneta che ha detto che non era italiana. Sì. Quindi ha fatto un'aggressione morale a tutti noi. L'aggressione credo. Morale, dai, non esagerare. Dai, dai su, sii bravo, dai, dai, sii bravo, sii bravo, l'ha fatto. L'aggressione poi morale. Sempre, ti sento male, Anna, ti sento male, dimmi, ti sento male, dimmi. No, poi dicono sempre al sì. Nord, in Veneto soprattutto, che il motore d'Italia sono loro, il nord-est e allora? Allora ascolti questa cosa, dice che noi non facciamo niente, siamo africani. Vabbè, Anna, ciao, no, Stefano Pescara, Stefano Pescara, vai. Luciani. Dimmi, dimmi. Ciao, senti, io siccome penso che tu sei sicuramente più acculturato di me, volevo chiederti la differenza tra vegetariano e vegano. Ma è un'evoluzione del vegetarianesimo, il veganesimo, cioè i vegetariani, i vegani diciamo rinunciano a più cose dei vegetariani, mettiamola così, dai. Vabbè, allora? Tu, Francesco Ancona, vai. Sì, una cosa sull'alimentazione e due sul Parenzo. Dimmi. Alimentazione, premessa, sono onnivoro, mi mangio con piacere la bistecca e la carne, ma nonostante questo stimo i vegani, stimo i vegetariani, li rispetto. Sono un appassionato di medicina alternativa complementare, ci sono miriadi di studi che dimostrano che l'alimentazione vegana, meglio ancora crudista, aiuta in patologie gravi quali tumori, alcuni tipi di diabete, eccetera. Quindi oggi mi ha detto i suoi colleghi di non fare riferimenti a determinati studi o testimonianze, chi vuole. No, ma lei può fare riferimenti a qualsiasi cosa, ma non ho capito il senso di questo intervento. Lei dice io sono mangio la carne, però sicuramente però sicuramente la medicina vegana o comunque l'alimentazione, scusi, vegana, eccetera, può dare dei vantaggi, giusto? può dare dei vantaggi. Ci sono testimonianze che aiuta o cura patologie gravi come alcuni tipi di tumori o alcuni tipi di diabete. Oggi purtroppo c'è una disinformazione totale, ma se uno vuole trova tutto, va quindi basta tirarti sulle maniche. Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, ragazzi, ci siamo appassionati tutti in questi giorni a Miss Italia, eh? A Miss Italia, alla signora Sabatini, Alice Sabatini, che secondo me è un grande genio del marketing, semplicemente perché ha trasformato queste gaffe in un modo per far parlare di sé. Però, non mi ricordo dove, credo a Jesolo, beh, è stata eletta anche Miss Nonna, che in realtà non è una nonna, ma è una splendida, almeno da quello che si legge, da quello che si vede, una splendida MILF di anni 46, dunque altro che nonna. Si chiama Deborah Silvestri ed è di Uzzano, provincia di Pistoia. Buonasera, ciao Deborah, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ma senti, ma che fai di mestiere tu, Deborah? Io ho un negozio di parrucchiera. Cioè fai la parrucchiera, una parrucchiera di, 40, di 46 anni. Miss sì. Nonna, ma scusa, sta appellativo di Miss Nonna, non ti sta un po' stretto? Che nonna, 46 sì, anni, sì. Che sei madre? Perché ma sennò... no, ma sono felicissima, ma sono orgogliosissima di esserlo. Ma perché sei nonna sul serio, no? Certo. Cioè sei quanti anni ha tuo nipote? 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, ma sei single o sei sposata? No, appena fidanzata. Ma che se uno quando si presenta a Miss così non si deve fidanzare mai, cioè non si deve mai va fidanzare bene. Ti sei appena fidanzata a 46 anni, ma sei separata, che c'hai? Sì, sono divorziata, è ovvio. Divorziata, ma sei monogama? Beh? Di solito sei monogama, sei fedele alla persona con cui stai? Eh beh, certo. Beh, certo, ma non è mica detto, cioè, non è anche detto. Perché molto probabilmente mi starà ascoltando, quindi che devo dire? Solo perché ti sta ascoltando. No, sono fedele. Miss, ma chi è che ti ha fatto partecipare a Miss Nonna? Scusami, Miss mia figlia. E perché ti ha fatto partecipare a Miss Nonna? Perché non lo so. Come non lo sai? È uscito perché questo concorso. Perché alla fine sei esibizionista anche tu. Un po' sei esibizionista. No, assolutamente. È la prima volta che faccio un concorso in vita mia. Ma come ti è venuto in mente di fare Miss Nonna? Mia figlia ha visto che c'era questo concorso a Cesenatico e mi ha iscritto. Mm. Ha detto mamma vai e vinci. E hai vinto? E ho vinto. E hai vinto. Ma sei contenta di aver vinto? Certo, perché no? 46 anni, quant'è che ha Miss Italia? È stata una bellissima esperienza. Ma il coso, com'è la domanda che hanno fatto? Ma che personaggio ti sarebbe piaciuto essere in un'epoca del passato? No, non me l'hanno fatta questa domanda. No, ma lo so, ma l'hanno fatta a Miss Italia però, l'hanno fatta a Miss Italia. Sì, infatti, l'hanno fatta a Miss Italia, ma a me non l'hanno fatta. Non te l'hanno e fatta. E ora in questo momento, diciamo Marilyn Monroe. Ma come me? Ah, Marilyn, il personaggio del passato, della storia del passato, della storia. Beh, sì, fa parte anche della storia. Vabbè, certo. Miss Nonna, io volevo sapere se ti sentivi proprio Miss Nonna oppure una grande. Sai che significa MILF? Che significa? Non sai che significa MILF? Dai, su, no, non ti posso. Non sai che significa MILF? Ma no, io mi sento no, sempre me stessa. Ma non sai che significa MILF? Sai che significa MILF o no? No, non lo so cosa significa. Le milfone, non sai che significa MILF, la parola MILF? No. Ah, un po' di inglese lo sai o no? No. Allora, vai a leggere questa cosa qua. Mother, I like to fuck. Sai che significa? No, mi dispiace. Non mi fare domande imbarazzanti. Ma non è imbarazzanti? No, ma non so poi se tu sei GILF. Perché GILF? Perché sì, perché grandmother, ma esistono le GILF, esistono anche le GILF, mi suggeriscono. Sì. Cioè esiste una categoria che si chiama MILF, tu appartieni alla categoria che si chiama GILF, cioè grandmother I like to fuck. Vabbè, vai a ripassare questa cosa, poi ci risentiamo, eh. Ciao, ciao Miss Nonna. Ciao, ciao, okay. ciao. Francesco Torino, vai. Buonasera dottor Cruciani. Dimmi. Volevo chiederle se era possibile separare il dileggio previsto dal plot della trasmissione nei confronti del dottor Parenzo dalla celebrazione dello Yom Kippur. Che sei ebreo anche tu? No, sono cristiano cattolico. Però ma no, non c'è nessun dileggio. Dove ha sentito il dileggio? ma insomma quel tono un po' deve assolutamente no, quello. Ognuno fa quello che vuole nella vita, festeggia pure la festa della mamma, le sue prescrizioni prevedono che non usi il telefono, non può risponderle. Beh, ho capito, io lo chiamo lo chiamo, mica è proibito chiamare, lo chiami adesso, che ha finito, ma no, ma è finita anche la trasmissione, però molto allora non ho più altro da dirle, no, però non, credo, non c'è nessuna presa in giro, a parte uno prende in giro che vuole, si può prendere in giro pure alla grande la religione, le tradizioni religiose, perché le religioni sono fatte apposta anche per essere derise, se sono libere le religioni, altrimenti diventano dogmi, no? Altrimenti diventano cose un po' pericolose. Dunque io potrei tranquillamente prendere in giro lo Yom Kippur, le tradizioni di questo mondo, le tradizioni dell'altro mondo, di questi tempi, visti alcuni fondamentalismi. Ma per fortuna non ci sono estremisti, no, estremisti. Non ci sono i fondamentalisti. No, non ci sono estremisti ebrei che possono incazzarsi perché uno fa qualche battutina sullo Yom Kippur, io peraltro non le ho fatte. Ognuno, ripeto, fa quello che vuole, se uno vuole digiunare per 50 ore non mi interessa. Però voglio dire, qualche battutina uno. Solo perché si tende poi a confondere, appunto, nel processo della trasmissione. Ma figuriamoci. La prevista dialettica con Parenzo con quello che poi invece può essere il suo legittimo Anita Roma, vai. Dimmi Anita. Beh, senta, io ho un po' da ridire sull'ironia che lei usava nei confronti di quella signora che diceva di avere 80 anni, che si era fatti il porto d'armi. Io dico che il porto d'armi lo dovrebbero dare a tutte le donne, invece di piangere quando vengono violentate o vengono ammazzate, pubblicate le foto di repertorio con le calze strappate e quant'altro. Cioè, ecco, tutte le donne dovrebbero poter avere il porto d'armi a richiesta per potersi difendere. Io stessa sono stata un tempo fa a Roma su un autobus aggredita da una persona che per ben due volte mi è venuta con un pugno sotto il naso. Vabbè, lei si armerebbe. Io lo farei molto volentieri, certo non in quel caso lì, però per esempio adesso mi sono dotata dello spray al peperoncino, se mi capita un'altra persona. Abbiamo incontrato signore anche di una certa età, detto con tutto rispetto, che prenderebbero tranquillamente, anzi una ce l'ha già l'arma che era del marito morto, e la signora che si armerebbe volentieri. Ci sentiamo domani, 18:30. Mamma mia, Gesù Maria, vi voglio Parenzo in trasmissione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.